Y en estos momentos que va a comenzar el partido, no, escuchamos primero el himno de River Plate. Oh, man, River. Melancólico el himno después de la derrota sufrida anoche. La culpa obviamente la tiene la altura, la tiene la comida, la tiene el gol que le hizo el Cinemanía, ese como se llama. Muy bien, vemos aquí en la cancha entonces que, a ver, ¿qué hacen los jugadores? Sí, se acomodan los codeguines, miran a la tribuna, saludan con la palma levantada, se suben la media derecha, se bajan la media izquierda, se cambian la cintita de la suerte de la muñeca izquierda a la muñeca derecha. Sí, ¿qué me dice Julio Ricardo Eberto Norberto? Ya tenemos la conexión con Italia, más precisamente con el Milan. Ustedes han visto y oído muchísimo sobre Boca Juniors y su llegada, la recepción de los hinchas, el traslado por la autopista Riccieri, pero nadie nos ha informado sobre la llegada del Milan. Una nota exclusiva para toda la delantera en Orsay con la llegada de los subcampeones intercontinentales y la recepción realizada por Berlusconi, capo di tutti capi de Italia y dueño del club. ¿Tenemos ya el contacto? Aún no. Bien, veamos qué pasa en el juego donde se acomoda... Ah, sí, ya tenemos el contacto. Bien, creo que primero viene la cortina de la RAE que pasa camino del circo. Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing with kings, nothing with crowns. Bring on the lovers, liars and clowns. All situations you come. Giocatori figli di una gran putti, mannaggia la marosca, la fesa di sore, da cosa facciamo al Giappone culorotti? Non potevamo giocare migliori per ganarle a questi torrande malandrino di Boca Juniors, se no? Quella cosa ti avevo detto io, che mettiamo gambardelli ragazzi, e voi che avete facchiato, Lasciate ogni speranza voi che entrate alla cancia, ma la fesa di sore, da spaghetti, macaroni, tutti i frutti, sponsoroso tu si sesessimo. Madonna mia, Madonna Santa, mannaggia la marosca, stronzo, voi, stronzo di calcio, quello calcio, voi non avete calcio, voi siete descalcificati e desclassificati. Ah no, gullorotti, per me se vanni la città dolente nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai con la perduta gente. Perduta gente, allora cosa facciamo? Facciamo la pugnetta? Vai Catanzaro, fai la pugnetta, 6x6, 36. Io sono il Silvio Berlusconi, cazzo. E giustamente allora, quando le figlie di una puttanazza di Boca non rompono le occhette, viene questo presidente nostro, il Carlo Aseglio, e mi rechazzano la lei di televisazione. Merda, questo presidente dell'orto. Io sono il premier, io sono i cavalieri, il capo di tutti i capi. E questo presidente dell'Italia, questi giocatori del Milan, sono tutti stronzo. ¿Stanno tutti bene? Merda, stanno come il prepuzio della tua mamma, figli di una gran putti, mannaggia la marosca, faccia tosta, la fesa di solita, me ne frega culo rotti, ma fangulo, io voglio mascalzoni fatoruso arrojarli a tutti per la finestra. Voglio entrare per la finestra e cantare quest'aria maestra, ma temo che il suo padre mi sorprenda.